Rimani qua, fuori, sul terrazzo a contemplare il suono delle sfere celesti, il suono del rimbombo al cori, dove l'anima ritrova il piglio per volare, per volare. Una casa aperta al limite del mondo, suono da altri pianeti, rialza su dal fondo, su dal fondo. Come down, feed our house, fly, the fucking melody is perfect. Avremo io e te una casa perfetta, dove contemplare ogni cosa, dimensione corretta della nostra anima dispersa tra le stelle dell'universo, dell'universo, dell'universo. Chiudimi gli occhi e dalle tue mani vedrò solo il tuo amore. Aprimi il cuore a rintocchi e gli echi del mondo, e dalle mie mani nascerà un fiore. Me ne frego degli altri, una casa aperta al limite del mondo, suono da altri pianeti, rialza su dal fondo, su dal fondo. Casa come navicella per volare negli altri pianeti, una casa come navicella per volare negli altri pianeti. Chiudiamo il resto del mondo fuori, ora che anche i soli sanno i nostri nomi. Presto, presto verrà il giorno del disincanto. Soffia con le tue ali da musa il tuo amore contro il mare. E amiamoci nei nostri alati letti, nei nostri alati letti. Domattina vorrei svegliarmi e vedere quegli occhi tra i miei, ascoltarmi e nell'oblio perdermi attraverso i tuoi occhi nei miei, per fare l'amore come dicono le stelle. Non ci sarai nei giorni miei per fare l'amore come dicono le stelle. Forse non ci sarai nei giorni miei. Una casa aperta al limite del mondo, suono da altri pianeti, rialza su dal fondo, su dal fondo.